24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Eccoci qui, buongiorno, ben ritrovati alle 6:33 minuti, cari ascoltatori, siete svegli? Ci potete seguire su Facebook, ci potete seguire su Twitter, Alino Milan sono io, oppure 24 mattino è la trasmissione, c'è il nostro Alessandro Longoni oggi sbrandato in redazione, Peter Bescapella alpino, lui non dorme, si sa, ed eccoci qua, siamo pronti col nostro bar abbastanza mattutino. Non rispondo a nessuna domanda, non ho intenzione di rilasciare nessun mannaggia, tipo non di parla mai, mai. Ma perché non rispondo? Ma un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Ah, vabbè, il caffè quello si può avere per tutti quanti. Offre come sempre Nicole Minetti, consigliere regionale della Lombardia. Oggi lo offriamo il caffè a Maurizio Tortorella, un ritorno, il vice direttore di Panorama. Buongiorno e ben svegliato, eccoci. Buongiorno a tutti. Eccoci. Saluto anche Massimo Giletti. Buongiorno. Che ci fai svegliato, Massimo, a quest'ora? Sapevo che c'era la Minetti che mi portava il caffè, invece sento te, allora. Vabbè, ho capito. Pazienza. Mi hai fregato dall'inizio. Sì, vabbè. Comunque, devo dire che noi offriamo il caffè anche a Massimo Giletti, seppure sia juventino. Quindi proprio un bar più democratico di questo non esiste. Accogliamo anche gli juventini. E Maurizio Tortorella invece è milanista, no? È vero, Maurizio. Sì, ma abbastanza agnostico, devo dire. No, agnostico, vabbè. Allora, io vi vorrei sottoporre subito un'intervista che trovate sul Corriere della Sera e sulla Stampa, al Ministro dell'Interno. Ha detto delle cose interessanti e poi anche un audio. Intanto vi dico i titoli dei giornali che ci hanno consegnato poco fa sono tutti sulla Libia, agguato mortale ai diplomatici americani per il Corriere della Sera, attacco agli USA, Obama reagiremo per Repubblica, il Sole 24 Ore invece il sì tedesco al fondo salva stati. Torna l'Islam assassino, il pacato titolo di apertura del giornale, mentre Libia l'ombra di Al-Qaeda per la Stampa, questi titoli. Ma vi sottopongo questo: il ministro dell'interno Cancellieri ha parlato di scorte al Corriere della Sera, ha detto ora basta, le scorte, le tutele, dobbiamo rivedere anche lo status di tutti coloro che hanno la scorta del passato. Per esempio il mio predecessore Maroni ha detto il ministro dell'interno la può tenere solo per un anno, non due. Lei dice io vorrei che mi venisse tolta la scorta il giorno dopo che finirò di essere ministro dell'interno. Noi abbiamo un audio, ormai è diventato storico, il nostro tormentone al presidente ex del Consiglio, Ciriaco De Mita, che sapete, chiamato la nostra Elisabetta Fusconi, intanto ha detto che lui la scorta, anzi la tutela, ce l'ha perché sì. Se me l'hanno dato vuol dire che una ragione c'è. Vorrei che si avesse nella memoria che io sono stato presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio sono stato e quindi la scorta mi spetta. E poi si è anche adombrato De Mita, le domande un po' ma neanche insistenti, incalzati. Voleva chiedere a Elisabetta Fusconi se veniva in diretta a spiegarci il perché di questa tutela. Ne parla come se fosse il pubblico ministero. Questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. E Massimo Giletti finì così qualche giorno fa. Allora, ma è un privilegio questa cosa delle scorte dei politici? Tu che li intervisti, li vedi, oppure è un po' di qualunquismo? Ma io mi ricordo quando ero ragazzino in bicicletta a Londra, rimasi un po' basito, quindi sto parlando di tanti anni fa, quando trovai Lady Diana in mezzo al traffico con il marito su una Jaguar con una persona che guidava e una semplice macchina di scorta che stava in fila come tutti i normali cristiani dovrebbero stare. Questo succedeva in un paese in quel periodo che comunque aveva problemi anche a livello internazionale e quindi Carlo non è ancora diventato re e di Diana non c'è più, ma era un diverso tipo di atteggiamento. Qui l'ultimo degli assessori alla scorta, alla paletta, però io questi titoli dei giornali li leggo da anni, basta con la scorta, ora risolviamo il problema. Questo è un paese dove si fanno gli annunci, ma gli annunci non serve mai nulla. E quindi si può sperare che però da questi ministri tecnici, te la vedi il ministro dell'interno Cancellieri, mi sembra una sì, ma la tristezza molto, che debba molto arrivare rigorosa. Tutto, la tristezza è che arrivi tutto dai ministri tecnici. Io vorrei che arrivasse dai ministri politici, perché la politica fa il paese, non dobbiamo delegare, stiamo delegando tutto ai tecnici, questa è l'ennesima dimostrazione dell'incapacità della politica di decidere ed è molto triste. Maurizio Tortorella, non so, forse è una battaglia di retro. La cosa grave è che quella storia di De Mita, per esempio, sì. La vigilanza che intervenne per impedire questa situazione, certo. Ricordiamo, no? È una festa di paese, la macchina con la persona che tutela De Mita entrò in questo paese, c'era la festa, non poteva entrare perché era tutto bloccato e denunciò il fatto che questa persona comunque voleva entrare là dove non poteva. Sotto procedimento disciplinare. Infatti Panorama anche lo scrisse a Prato la Serra. Noi il sindaco di Prato la Serra non ci ha mai concesso udienza. Vorremmo invitarlo qualche volta. Abbiamo chiamato Maurizio Tortorella, ma è una battaglia di, non so, di retroguardia, questa qua un po' demagogica, oppure anche da queste cose si vede che deve cambiare l'Italia, deve cambiare qualcosa, no? Ma è un tentativo sacrosanto. Sono d'accordo con Giletti che è un tentativo che andava fatto molto tempo fa, doveva farlo la politica, non i tecnici. Sono d'accordo anche col fatto che, come purtroppo molte cose di questo governo, l'annuncio c'è stato, ora speriamo che seguano i fatti, perché purtroppo se si guardano anche i provvedimenti annunciati e poi la realizzazione pratica, il contrasto è evidente, forte ed è piuttosto mortificante anche per questo governo tecnico, che pure sembra quasi intoccabile, ha una maggioranza in Parlamento formata dall'ex centrodestra e l'ex centrosinistra, quindi dovrebbe poter fare qualche cosa. Si ha l'impressione che anche il governo tecnico, insomma, dimostri che c'è un meccanismo che è imballato e che non funziona, che quindi probabilmente bisognerebbe mettere mano a meccanismi istituzionali. Sì, ma poi cosa si può fare? Cioè, qui adesso mancano 6 mesi alle elezioni, 7 mesi, 8 mesi, quello che è, sembra tutto ormai. Oggi Repubblica scrive che il ministro Passera pare abbia scelto la strada di Casini, Monti al Washington Post dice mi ricandido, non ci ho pensato a fondo in questo momento. C'è da dire che la politica, secondo me, è un'esperienza molto breve, eppure è stato nominato senatore a vita, che vuol dire che in Senato non fanno politica, c'è un po' un lavoro molto intenso su quello che bisogna fare, ma anche un pensare anche all'immediato futuro. Però il ministro Cancellieri ha detto un'altra cosa più importante delle scorte, se volete, cioè su Roma basta queste manifestazioni. Ecco, Massimo Giletti ha definito la manifestazione degli operai dell'Alcoa intollerabile, solo una stretta pianificazione perfetta dei servizi effettuata dal questore ha consentito di scongiurare conseguenze. Ma basta, Roma non deve diventare lo sfogo di persone che, seppure magari con i loro diritti di tenere il posto, di mantenere il posto di lavoro, vengono qua e pensano a Roma di creare manifestazioni di piazza, disagi. È giusta questa linea o è troppo ferma come linea del ministro dell'interno, Massimo? Ma io ho un'altra immagine che do, perché poi alla fine le immagini hanno più forza delle parole. Quando tu sei negli Stati Uniti hai diritto a protestare, certamente, i poliziotti hanno delle specie di vernici, spray di vernice, tracciano una riga oltre la quale tu non puoi più andare. Ed è molto consigliabile non farlo. Se tu attraversi quella striscia, vieni preso e portato via. Noi abbiamo dei giudici che hanno condannato la Cassazione l'altro giorno, non è associazione sovversiva di stampo terroristico, persone che hanno attentato alla vita di Iachino. Pietro Iachino. Dobbiamo capirci, è un sistema paese che va a due marce. È vero, poi i disagi di Roma, la gente che vive a Roma lo sa benissimo, sono centinaia le manifestazioni, chiunque abbia un problema viene a Roma e fa casino. Qui in questo paese bisogna far rispettare le regole, non siamo più abituati a far rispettare le regole, non si possono far rispettare così un giorno sì, un giorno no, non c'è, questo è il vero problema, rispettare le regole, siano i manifestanti, siano coloro i quali purtroppo si trova poi di fronte a dei giudici che molto spesso prendono decisioni lontane da quelle che sono le logiche. Però è forte questa frase del ministro dell'interno, cioè a dire, forse basta. Vuol porre un argine, come dire, hanno iniziato quelli dell'Alcoa, adesso non è che si svegliano gli operai di una società magari in crisi, che per carità, massima vicinanza, massimo tentativo di cercare di aiutarli a preservare il posto di lavoro, però non è che prendono, vanno a Roma e creano questi casini. Maurizio, la vedi così, come dire, intervengo subito e chiarisco che la linea è questa, altrimenti se no qui in autunno che succede? Ogni giorno c'è qualcuno che arriva a Roma. Stavo per dirlo, sembrava proprio la classica grida manzoniana nella quale col tentativo di evitare che appunto possa ripetersi lo stesso gioco anche in futuro, con purtroppo la previsione che qualche crisi aziendale in più si affacci. E come no, certo, purtroppo sì. Purtroppo sì. Allora io voglio far sentire un audio soprattutto a Massimo Giletti, perché so che lo farà arrabbiare, anche a Maurizio Tortorella, i nostri ascoltatori, Ignazio La Russa ieri. lo sai cosa ha detto Massimo della Juve? No, farò sentire. Ecco, te lo faccio. Sempre... No, te lo faccio sentire. Te lo faccio sentire. Te lo faccio sentire, che questa è una sveglia più di un quadruplo caffè per te, eh? Fu allora che cominciò a inseguire con quella vittoria la terza stella che non ha ancora conquistato, ma adesso pare che gliene diano un'altra, ogni 10 inquisiti una stella nera, quella le ha conquistate. La stella nera, Giletti, ogni 10 inquisiti la stella nera. Ignazio La Russa, no, ma la stella, vedi, allora noi, se io chiedo il rispetto per le regole, io quando la Juventus vinse lo scudetto, ero alla Domenica Sportiva, dissi le regole vanno, ci piacciono, vanno rispettate. E qui c'è un problema molto più grave, lui è molto simpatico, ci sta e va benissimo, andrebbe speso così anche allo sport, qui c'è un problema serio della giustizia sportiva, non possiamo avere un sistema di questo tipo, non è possibile ancora tenere in piedi una non giustizia, perché la giustizia sportiva non è una giustizia, quando l'imputato non può confrontarsi con chi lo accusa, deve portare lui le prove a sua discolpa, siamo fuori dal sistema. Ma si dice così, la giustizia sportiva non può rispettare mica i tempi della giustizia normale, perché i campionati iniziano. Allora facciamo così, giustizia sommaria, e allora non chiamiamo la giustizia. Decapitiamoli, dice. Io ho sempre in mente le intercettazioni dell'Inter gravissime che non vennero prese in considerazione nel processo di Calciopoli. Vogliamo ancora parlare di questo? Ma perché se vuoi sparlare dell'Inter qua, Massimo. No, ma dico, allora come mai quelle intercettazioni non finirono in quel processo? Perché non c'era tempo? Beh, non importa, va bene. La morale va in prescrizione? No, vabbè, comunque la stella nera di La Russa non è male. Come battuta, devo dire, certo, lui da interista. Allora, le informazioni sul traffico qui, tazzine, caffè, e poi rientriamo con Massimo Giletti e Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama. Le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del è diventato ormai un rap mitico, non l'avete ancora sentito in rete? Massimo Giletti e Maurizio Tortorella. Sapete chi è questo che parla? Lo sapete, sì. Presidente della provincia di Napoli, Massimo, come? Cesaro, senti, non hai sentito come pronuncia il World Urban Forum in una conferenza stampa? Te lo faccio sentire in originale. World Urban Forum. Questo è, vabbè, insomma, Cettola qualunque. Più o meno Cettola qualunque. L'ha definito il sindaco di Salerno, è uno sterminatore di congiuntivi, il presidente della provincia di Napoli. No, parliamo di una cosa ben più seria. Oggi su Panorama mi ha colpito molto, tra i servizi, un'inchiesta che Carlo Puca ha fatto, cioè si è infiltrato 100 giorni a Scampia, uno dei quartieri di Napoli dove purtroppo tra l'altro sta tornando quelle che vengono definite le faide di Camorra, con tanti ammazzamenti, e anche raccontando come è diffusa la vicenda della droga, della cocaina. Io vorrei, da Maurizio Tortorella, da Massimo Giletti, fare una domanda molto chiara. È successo anche a Milano un duplice omicidio misterioso per strada, ora si indaga nel mondo della droga, dei narcotrafficanti, sembra questo essere il motivo, il giro di origine. Sì. Allora, la questione cocaina, oggi tutti i giornali scrivono come se ci svegliassimo oggi a scoprire che la cocaina è diffusa. Allora, Massimo Giletti, se scopriamo adesso che nelle nostre città gira cocaina, che cos'è, una grande ipocrisia, oppure ce ne accorgiamo quando ci sono questi ammazzamenti per strada che ci danno dei pizzicotti, come dire, svegliatevi, dove state? Senti, io sono stato di recente in Afghanistan. L'Afghanistan produce il 90% dell'eroina. Sono da oltre 10 anni soldati internazionali lì e si produce sempre il 90% di eroina. Questo è un dato, no? Due, non so se avete sentito la denuncia che fece poco tempo fa il vice capo della polizia, il dottor Cirillo, che è una persona estremamente seria. Ha detto: abbiamo 200 persone pronte per essere arrestate, più o meno, così ho usato termini diversi, ma pronte per essere arrestate. Stiamo in alcuni casi aspettando da 3 anni che la magistratura ci dia una risposta. E di che cosa parliamo? Ogni anno facciamo un blitz a Scampia, portiamo 200, 300 tra carabinieri e poliziotti, dopodiché tutto torna come prima. Questa è la realtà di questo paese. Si dicono, si fanno gli annunci, si scrivono sui giornali i titoli da prima pagina e poi la vita torna tutta. Sì, però c'è anche un grande consumo, cioè in un banale ottica di domanda e offerta. No, Maurizio Tortorella, mi pare che ci sia una grande diffusione perché ci sono tanti consumatori. Oggi il ministro Cancellieri nell'intervista al Corriere dice: non militarizzeremo né Scampia né Milano, non è questa la risposta. Però il reportage che io ho letto su Panorama di Carlo Puca è inquietante, cioè voglio dire, no? Succede. È sconvolgente, se puoi appunto aggiungere aggettivi, sono 8 pagine. Lui ha trascorso più di 100 giorni alle vele di Scampia, sì. un senza tetto, è stato accolto prima con diffidenza, poi invece è integrato nell'ambiente, ha visto e ha partecipato a fatti veramente sconvolgenti. Ha scoperto che la camorra usa anche le donne per gestire la droga, cosa che non, io francamente ignoravo, pensavo che fosse un ruolo riservato agli uomini. Ha parlato con camorristi, li ha frequentati, ha capito anche come funziona l'addestramento dei cani. Ed è giusto quello che ci diceva prima, la polizia ha chiesto arresti, ha proposto arresti all'autorità giudiziaria per un numero altissimo di presunti appunto affiliati alle cosche, ma sono lì in attesa da anni. Sì, ma questo... E dall'inizio dell'anno, tanto per dare una cifra sottostimata e forse anche ignota a tutti, nella provincia di Napoli sono morte per omicidio, intendo dire, 42 persone fino a sabato scorso, che è stato l'ultimo caso, quindi un numero pazzesco. Però io sposterei ancora sul tema, sulla questione del consumo. Massimo, perché c'è tanta... Perché costa poco, te lo dico io. Costa poco, ho capito, però voglio dire, è pur sempre è una droga, cioè non è una cosa che uno prende come prende un bicchiare d'acqua. Però ovviamente il consumo si è diffuso anche per quello. Ah sì, certo, anche perché costa poco. Massimo Giletti anche... Sballano, una volta la cocaina ad uso consumo solo delle classi elitarie, oggi sballano tutti, sballano anche con gli operai, sballano persone che non hanno nient'altro da fare che cercare la droga ormai fin la loro vita. Come può raccontare questa testimonianza del collega che ha fatto per Panorama? È finalizzata solo ad arrivare alla sera a prendere la droga dentro da chi la rifornisce, quindi è tutto finalizzato, il furto, lo ship, tutto solo per quello. Quindi chiunque può farlo. Questa è l'offerta. Guarda quanta acqua avevano trovato nel Po, quando hanno fatto un'analisi nel Po. Sì, sì, è vero. Tutto arriva da Milano. Milano è la città della coca, no? È vero, purtroppo è così. Io qua devo per il momento chiudere il nostro bar. Tu, Massimo, quando torni in onda l'Arena? L'Arena torna in onda il 7 ottobre. Ah, ecco, poi ve la prendete con le vacanze dei politici, ma sai, non è colpa mia se per risparmiare, ormai mai si tagliano i programmi? Penso che è un programma importante alla concorrenza come le Iene. Attenzione. Dicembre. Ah, polemicuccia con la Rai. No, no, no, no. Se parte a dicembre, voglio dire, sono dei dati. Ecco, anche lì bisognerebbe, anziché tagliare su chi produce, tagliare su chi non è in grado di fare ascolto. Va bene. Io intanto vi ringrazio moltissimo a Massimo Giletti, conduttore in Rai, e Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Panorama che trovate oggi ovviamente in edicola. Grazie per essere stati con noi, ovviamente, e ci risentiamo presto, se volete, se vi ricordate come oggi la sveglia con 24 Mattino. Ora il giornale radio. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Fu allora che cominciò a inseguire con quella vittoria la terza stella che non ha ancora conquistato, ma adesso pare che gliene diano un'altra. Ogni 10 inquisiti una stella nera, quella le ha conquistate. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello, un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma. Alle 7:20 minuti vi siete destati solo ora e siete ora solo all'ascolto di Radio 24. Intanto benvenuti comunque, noi siamo in onda dalle 6:30 e il nostro alpino Peter Bescapè è sempre qua e siamo pronti alla lettura dei giornali. Vi anticipo che avremo ospite alle 8:15 il governatore della Sardegna, Ugo Cappellacci, la regione che deve far fronte, almeno questo dice anche oggi il ministro Cancellieri in un'intervista sui giornali, alle situazioni più di difficoltà per quel che riguarda il mondo del lavoro e le situazioni di crisi delle aziende. Parleremo poi di quello che è successo in Libia, tema di apertura dei giornali, di molti giornali, gli attacchi di Al-Qaeda, rivendicati da Al-Qaeda, l'uccisione di un ambasciatore americano non avveniva da decenni, e anche di 3 soldati americani, funzionari americani, e insomma queste proteste forse generate da un film ritenuto blasfemo dal mondo islamico. Ma andiamo appunto con ordine, andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola. In questo giovedì 13 settembre le aperture, c'è chi apre sulla decisione della corte tedesca che salva il fondo salva stati. Sì tedesco al fondo salva stati, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, oppure Libero, l'euro è salvo, noi no, Avvenire, il salva euro è salvo. E poi la Libia, per gli altri giornali, Corriere della Sera, agguato mortale ai diplomatici USA, Repubblica, attacco agli USA, Obama, reagiremo, La Stampa, Libia, l'ombra di Al-Qaeda, Il Giornale, torna l'Islam assassino, questa è l'apertura, Il Messaggero, Libia, ucciso l'ambasciatore USA, L'Unità, torna il terrore di Al-Qaeda. Mentre un'apertura politica per il Fatto Quotidiano, sorpresa, il primo partito è Grillo più di Pietro, Il Manifesto invece una vicenda che è in Pakistan, 314 operai bruciano in 2 fabbriche tessili, e la vita di chi lavora vale meno di una griff, e il titolo è L'ultima moda del Manifesto, vale a dire appunto questo incendio terribile, molti operai uccisi in Pakistan nelle aziende dove si producono anche, fa sapere il Manifesto, i vestiti che noi indossiamo. Allora, da cosa voglio partire? Nella regione Lazio c'è un terremoto politico che qualcuno ha già definito come il nuovo possibile caso Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, infinito in carcere con l'accusa di essersi appropriato di soldi pubblici del partito a scopo personale. La vicenda che è stata denunciata qualche giorno fa dal Fatto Quotidiano ora è deflagrata con un'accusa all'ex capogruppo del Popolo della Libertà in Regione Lazio, Franco Fiorito, 41 anni, di peculato. Dopo che c'è stata una relazione di Banca Italia che ha portato i magistrati romani sui conti del gruppo PDL, l'accusa è questa: avere utilizzato soldi finiti al gruppo PDL, quindi soldi dei partiti, soldi pubblici, soldi nostri per fini personali. Il gruppo è mio, i soldi li gestisco io, così titola il Fatto Quotidiano pagina 15, ma sul Corriere della Sera pagina 27 ci sono anche le ricevute, i bonifici che sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura di Roma. BMW coi soldi del PDL, indagato l'ex capogruppo, accuse a fiorito. Movimentazione sospette, scrive Ernesto Menicucci, per esempio bonifici allo stesso Fiorito, cioè autobonifici, per 753.000 euro, oppure altre operazioni bancarie senza destinatario per 1,5 milioni, uso di decine di carte prepagate, prelievi in contanti per 250.000 euro. E poi ci sono delle fatture sui quali la procura vuol vedere chiaro: 784 euro per forniture di vini di pregio e champagne, una fornitura di cravatte Marinella, il più noto produttore di cravatte a Napoli, ma noto anche in tutto il mondo, bonifici partiti dal conto della regione verso una società che gestisce i resort di maggior lusso a Porto Cervo, in Costa Smeralda, location da VIP, prezzi da capogiro. E insomma, l'accusa è quella di aver utilizzato dei soldi, come scrive l'Unità, scandalo alla Pisana, il PDL sotto shock, la sede della Regione Lazio, oppure Repubblica, faida nel PDL per 109 auto bonifici. Ma attenzione, perché il Messaggero dà una versione anche aggiuntiva su Franco Fiorito, che ha fatto a questo punto un controdossier. Scrive Claudio Marincola: ecco il controdossier di Fiorito, che una volta defenestrato dal Popolo della Libertà, o meglio dal gruppo, da capogruppo del Popolo della Libertà, ha fatto un controdossier dicendo: e gli altri invece cosa spendono, cioè quelli che mi accusano all'interno del partito? Il nemico Battistoni, per esempio, altro consigliere regionale, secondo lo stesso Fiorito presentava ricevute da 7.000 euro per l'acquisto di vini raffinatissimi, o fatture per cene, due coperti da Ottavia Santa Croce in Gerusalemme a base di ostriche francesi, moscardini, crudo misto, fragolino, sale, olio e pepe, con 174 euro di conto. Fiorito, scrive il Messaggero, allarga il raggio della vendetta, elenca le spese folli di altri componenti del partito, come Veronica Cappellaro, presidente Commissione Regionale Cultura, che ha pagato per le cene sociali del gruppo 32.000 euro, tutti in un solo anno, 2011, e quasi tutti nello stesso ristorante, Pasqualino al Colosseo. Pranzetti consumati all'ombra dell'anfiteatro Flavio, che ai contribuenti sono costati dagli 8 ai 10.000 euro. Insomma, sarà un'accusa e controaccusa, dossier contro dossier anche all'interno, il risultato non cambia, sono sempre soldi che finiscono nelle casse dei partiti e quindi soldi del finanziamento pubblico, soldi nostri degli italiani. Tra l'altro il Messaggero fa anche un profilo di chi sia Franco Fiorito. Vittorio Buongiorno lo scrive a pagina 13: stazza da peso massimo, fuori forma, barba curatissima, da tutti conosciuto come Francone, ex sindaco di Anagni. Ormai lo si vede raramente lì, il più votato in consiglio regionale, uomo della corrente di Alemanno, un uomo dai modi spicci, qualcuno dice da fascista, almeno i suoi detrattori, anche per l'SMS di auguri che lui mandò nel Capodanno 2005 ai consiglieri, che si chiudeva col motto Memento audere semper, il motto della decima massa. Apriti cielo, lui tirò dritto. Sei mesi dopo fece trovare nella sala gialla del comune di Anagni due targhe che inneggiano alla marcia su Roma e alla cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini. L'ultimo regalo prima di doversi dimettere perché eletto in consiglio regionale. Ora l'accusa di peculato. Questo è, ci saranno sviluppi ovviamente della vicenda. Prima della pubblicità voglio raccontare l'articolo che Libero dedica a Erika De Nardo, colei che insieme a Omar uccise la madre di Erika e il fratellino Gianluca. Ora Erika è libera e sogna una matrigna. Pagina 18 di Libero: a 28 anni l'assassina di Novi Ligure vive sul Garda, vuole trovare lavoro, l'amore e al padre augura di risposarsi. Vestita con un top nero, pantaloni rosa, occhiali da sole con montatura dello stesso colore, Erika appare la quintessenza della normalità. Nelle foto apparse ieri sul settimanale Oggi, ha una casa dalle parti del lago di Garda, vive lì dopo aver scontato 10 anni di carcere e 9 mesi nella comunità Exodus di Don Mazzi. Erika vuole molto più che tornare in buoni rapporti col padre. Come dimostra l'invito a pranzo, desidera che lui si rifaccia una vita, come ha detto lo stesso Don Mazzi. A Oggi, la compagna dell'ingegner Denardo, ha detto Don Mazzi, è una persona dolce, accogliente, ed Erika vorrebbe che suo padre si sistemasse e facesse una nuova vita. È molto polemico l'articolo di Giordano Tedoldi su Libero. A un certo punto scrive: l'invito a pranzo è il simbolo di una riappacificazione consolidata, ma dove è finito quel passato? Dove è finita l'Erika di 11 anni fa? Ne parleranno mai a pranzo? Perché ci suona così stonato che Erika, tramite il suo mentore, Don Mazzi, auguri al padre di rifarsi una vita dopo avergliela così assurdamente disfatta? E quell'insistere sul fatto che la nuova compagna del padre è una donna dolce, di buon cuore, se fosse stata un'arpia, se fosse stata una donna temperamentale, nervosa, aggressiva, cosa avrebbe fatto Erika? Avrebbe ugualmente accettato l'amore del padre di lei, augurandogli ogni bene? Insomma, il dibattito ovviamente, secondo Libero, è aperto. Certo, fa specie pensare che a 28 anni l'assassina di Novi Ligure, che allora era sedicenne, era minorenne, dunque sicuramente ha goduto di pene alleviate, però un duplice omicidio efferato, sia libera, come libero anche Omar Favaro. E certo, si può pensare ciò che si vuole, ma fa sicuramente effetto sentire Erika che dice: auguro a mio padre di risposarsi e rifarsi una vita dopo che lei stessa ha ucciso la moglie di suo padre, nonché sua mamma, e il fratellino. Noi tra un'ora ci concentreremo su quello che è successo in Libia, dove sono scoppiate le violenze, preso di mira il consolato americano a Bengasi ed è stato ucciso l'ambasciatore americano che era in Libia da tempo, Chris Stevens, con lui sono morti altri 3 americani. Tutto sembra nato dalle proteste per un film considerato contro Maometto, contro l'Islam, un film blasfemo che già aveva causato violenze e dimostrazioni al Cairo, e anche lì c'era stato un assalto all'ambasciata nella capitale egiziana. In realtà, secondo Washington, potrebbe esserci un attacco pianificato, potrebbe essere questo il pretesto, come si suol dire in questi casi, potrebbe essere una concausa di eventi, magari queste manifestazioni, ma magari qualcuno ne ha anche approfittato, in questo caso Al-Qaeda, comunque il terrorismo islamico, per colpire. Sta di fatto che molti giornali aprono su questo tema. Gli Stati Uniti sotto attacco in Libia, titola pagina 11, Sole 24 Ore, ucciso a Bengasi l'ambasciatore Stevens, e tra l'altro c'è Guido Limpio a pagina 3 del Corriere della Sera. Racconta un ricordo personale di Chris Stevens. Era il 1 maggio, lo definisce l'amico americano che capiva gli arabi. Era il 1 maggio, scrive Guido Olimpio, e quello è stato l'ultimo giorno in cui ho visto per l'ultima volta Chris Stevens, diplomatico esperto, amico. Abbiamo parlato a lungo della sua nomina ambasciatore in Libia, paese che conosceva e amava, e col suo stile per nulla formale da californiano vero aveva toccato un tema rimasto un po' sotto traccia, ma sentito, quello dell'infiltrazione dei militanti islamisti. Dicono che arrivino anche dall'estero, aveva affermato. Un uomo che era abituato ai posti difficili, sapeva cosa fosse il Medio Oriente, conosceva la terribile favola della rana e dello scorpione, quella dove quest'ultimo uccide la prima dopo che lo ha aiutato a attraversare il fiume. Il suo compito, da quando è stato mandato nel 2011 rappresentante speciale americano a Bengasi, dove arrivò in nave, il suo compito era tenere i rapporti con gli insorti libici, e la città della Cirenaica diventa un luogo chiave. Stevens svolge un grande lavoro di tessitura, tiene i rapporti con i ribelli, coordina, contribuisce a mantenere viva l'attenzione a Washington, che pur partecipando all'operazione contro Gheddafi si è mossa con molta cautela. Già aveva grande esperienza in Medio Oriente, a Gerusalemme nel 2002, dove l'ho conosciuto, racconta Olimpio, ha dovuto districarsi nel ginepraio israelo-palestinese, collaborava col team che aveva contatti con Yasser Arafat nella mucata a Ramallah e si era abituato alle riunioni convocate e cancellate, alle interminabili sedute notturne col Rais palestinese. E Arafat, sempre arzillo al calar del buio, teneva tutti svegli, ordinando al fedele Nabil altro caffè per i miei ospiti. Insomma, questo è il profilo della persona uccisa. C'è da dire che il giornale è molto duro nel titolo di apertura: Islam assassino, torna l'Islam assassino, e questo è l'editoriale di Magdi Cristiano Allam in prima pagina. È proprio così, le prime due parole sono queste: Islam assassino. Dietro gli attacchi terroristici alle ambasciate americane a Bengasi e al Cairo non c'è una scheggia impazzita, addirittura nemica del vero Islam, così come predicano i relativisti nostrani, da Obama, che si è innamorato del Corano e difende Maometto, a Monti, che ha il portafogli che gli batte al posto del cuore, da questa Unione Europea che finanzia generosamente e follemente i nostri carnefici, dal Marocco alla Siria, a quella parte di chiesa che si è invaghita del dialogo. Non è questa la verità, scrive Allam. Aprite bene gli occhi, guardate chi si accalcava di fronte alle due ambasciate, ha protetto alle spalle i terroristi che si sono fatti largo a suon di bombe e razzi. Erano uomini e donne, giovani, adulti, anziani, apparentemente persone come tutte le altre. Insomma, Magdi Allam attacca duramente. Certo, c'è questo film dietro tutto questo, chissà, è un film che si intitola L'innocenza dei musulmani, un film che piace al reverendo Terry Jones, quello che brucia il Corano di tanto in tanto in America, è un film finanziato da Sam Basil, nome che forse non esiste, forse è un pseudonimo, una persona che fa sapere il Washington Post, l'FBI avrebbe già messo sotto protezione da qualche parte. Lui ha dichiarato: ho raccolto 5 milioni di euro per fare questo film da donatori ebrei, che però non ha detto chi siano. Secondo il manifesto è un porno in costume da 5 milioni di dollari, cioè porno nel senso che è un film spazzatura dal punto di vista del tecnico, dal punto di vista anche della realizzazione, che scatena però e ha scatenato reazioni. C'è da dire che però Adriano Sofri fa un bel editoriale oggi in prima pagina di Repubblica dal titolo L'innocenza degli islamici, la rozza parodia del profeta che infiamma le piazze. Evidentemente ha visto questo film fatto da autori misteriosi, un budget da 5 milioni di dollari. Scrive Sofri che un film, anche il più grossolano, un romanzo, dei disegni satirici, possano scatenare furia di folle, linciaggio e pretesti di guerre e guerre di pretesti. È solo un segno della durata strenua e spesso della recrudescenza dello stato ferino sopra il quale la civiltà è passata come una vernice trasparente. E la smisurata differenza tra i modi di sentire e sfruttare l'esperienza religiosa non può essere ignorata. Il cosiddetto reverendo Terry Jones, che si compiace periodicamente di farla grossa bruciando Corani in pubblico e si è precipitato ieri sulla nuova occasione, è un fanatico impostore. Ha una quantità di colleghi e concorrenti nella nostra parte del mondo. Ma nei giorni appena scorsi, quando si giocava il destino di una bambina pakistana, Rimsha, undicenne, cristiana, con la sindrome di Down, accusata calunniosamente di aver bruciato alcune pagine del Corano, incarcerata, non ci furono assalti alle ambasciate e nemmeno, salvo che mi siano sfuggiti, più misurate manifestazioni di sdegno di fronte a una simile infamia. Le differenze ci sono e fanno sì che non si possa cavarsela una volta per tutte in nome della libertà d'espressione da una parte o del rispetto per i sentimenti altrui dall'altra. Questo è l'inizio dell'editoriale, che poi continua per un'intera pagina, di Adriano Sofri su questo film, ma anche sul fatto che, appunto, quando ci sono state delle accuse nei confronti dei cristiani, della religione cristiana, come scrive Adriano Sofri, non è che abbiamo visto ambasciate assaltate di paesi che hanno attaccato la religione cristiana o hanno ridicolizzato dei cristiani. Sta di fatto che questa è la situazione, secondo il filosofo politico Michael Walzer, intervistato dal Corriere della Sera da Ennio Caretto. Stiamo perdendo le primavere arabe. Questo è anche un altro tema, insomma, sia in Egitto queste violenze, sia ora in Libia, due paesi che negli ultimi anni hanno visto dei cambiamenti al potere, salutati anche dal mondo occidentale come le possibili aperture verso una democrazia, un passaggio verso la democrazia, ci ritroviamo a fare i conti con questa situazione. Su questo ci confronteremo con Massimo Fini, scrittore del Fatto Quotidiano, e Carlo Panella, anche lui scrittore giornalista. Dalle 8.30 l'economia invece, è arrivato il sì dalla corte tedesca che ha promosso il salva stati. Questa è l'apertura anche di altri giornali come il Sole 24 Ore, tutti i dettagli li trovate da Alessandro Merli a pagina 3, il via libera al fondo salva stati a patto che l'impegno di Berlino non superi 100 miliardi di euro, altrimenti ci vuole l'approvazione del Bundestag, il Parlamento tedesco. Quindi questo è il sì condizionato dato dalla Corte Costituzionale tedesca, che così si è promossa. C'è stata anche una gaffe del presidente della Corte che ha detto, in pratica è uscito, ha detto: ci siamo pronunciati per rinviare la decisione, cioè no, ci siamo sbagliati, non per rinviare la decisione, segno che insomma o la tensione o la gaffe del presidente della Corte tedesca. Ma poi il giallo è stato subito risolto, è stata una gaffe detta, e in realtà la decisione è arrivato questo sì condizionato appunto al fondo salva stati. Invece, venendo in Italia, Mario Monti l'ha definita una ottima notizia, una buona notizia, ma certo però tiene ancora banco in Italia che cosa? Il futuro di Mario Monti, il tema Monti bis, non ci vuole il Monti bis, gli italiani vorrebbero o no il Monti bis. Questa volta fa discutere un'intervista che Monti ha rilasciato al Washington Post. L'Italia per il momento non chiederà l'intervento alla BCE, ma soprattutto sul suo futuro politico, alla domanda: e dopo che succederà? Veramente non ho ancora riflettuto su questo argomento. La risposta del Premier: sono stato molto impegnato a governare il paese in questi mesi difficili, ma il mio futuro politico sul quale mi sto concentrando finisce con le elezioni nella prossima primavera. Concepisco il mio inatteso impegno nella politica come di breve termine. Verrebbe da dire, facendo una battuta, visto che è stato nominato senatore a vita, che vuol dire che in Senato non si fa politica? In breve termine, l'impegno politico lo concepisco così, si dimetterà domani dal Senato, immagino. Altrimenti è semplicemente un rimandare, un non affrontare in questo momento la questione. Chi l'affronta sono altri ministri, come il ministro Passera, che Repubblica dà per certo come un uomo che avrebbe deciso la strada, la sua strada dovrebbe essere quella con Casini. Allora, il ministro allo sviluppo economico Corrado Passera, secondo Repubblica, nel retroscena di Roberto Mania che trovate a pagina 17, avrebbe scelto quella di Pierre è la strada giusta. Pierre è Pier Ferdinando Casini, che sta cercando di mettere insieme questa coalizione. Si parla anche ancora di Emma Marcegaglia, ribattezzata ormai da Rocco Buttiglione il Monti Donna dell'UDC. Potrebbe vedere tra questi alleati anche Gianni Letta, la CISL, mentre invece il gelo su questo fronte è con Montezemolo. Passera, scrive Repubblica, non voleva l'accordo tra l'UDC e Italia Futura di Luca di Montezemolo. Il ministro dello sviluppo economico non è mai stato coinvolto nell'operazione del presidente della Ferrari negli ultimi mesi, soprattutto per gli interessi di Montezemolo sull'alta velocità, e il ritardo del ministro nel dar vita all'autority del settore è calato il gelo tra i due. Ecco, se siete interessati dunque alle schermaglie, alle ai riposizionamenti o alle possibili coalizioni, sappiate che è tutto un gran movimento, ovviamente nell'attesa di capire che cosa succederà nei prossimi mesi in vista delle elezioni. Secondo il Fatto Quotidiano, a questo proposito, è l'apertura di prima pagina, il primo partito al momento, si riprende il sondaggio fatto da Ballarò martedì, è Grillo più Di Pietro. Il Movimento 5 Stelle è dato come terzo partito al 17,9%, dietro al PD che è al 25,4%, il PDL al 21,9%, ma la vera sorpresa, scrive il Fatto, è Antonio Di Pietro al 7,5% con la sua Italia dei Valori, tanto che in qualche modo nell'articolo di Fabrizio Esposito a pagina 3 è quasi un invito, sembra quasi sottotraccia un incitamento, un invito a dire al Movimento 5 Stelle e Di Pietro: guardate che se vi mettete insieme, i non allineati insieme sono la prima forza di coalizione. Ripeto, è un invito, Beppe Grillo e il Movimento hanno sempre detto non ci alleiamo con nessuno, ma staremo a vedere anche qui sviluppi. Intanto dal punto di vista economico sembra profilarsi il nuovo redditometro. Il capo dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera ne ha parlato in un'audizione al Parlamento e oggi ci sono due pagine. Il redditometro, il fisco peserà il lusso. Cosa vuol dire peserà il lusso? Lo trovate a pagina 15 del Corriere della Sera con Lorenzo Salvia. Lo schema è questo: 100 euro non sono sempre 100 euro. Voi pensate di avere in mano quella banconota, se ce l'avete in mano, e pensate che siano 100 euro, ma potrebbero pesare di più o di meno a seconda di come sono stati usati e quindi valere di più se sono serviti per una spesa voluttuaria come un soggiorno in una beauty farm, o di meno in caso di acquisto che con il lusso non ha niente a che vedere, come un hotel di media categoria, per restare nel settore. Questo è uno dei nodi da sciogliere per il nuovo redditometro, il sistema che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe utilizzare per confrontare il reddito dichiarato dal contribuente col suo tenore di vita, con così la possibilità poi di far scattare controlli mirati in caso di scostamenti sospetti tra chi ha delle spese che non sono un po' compatibili. E insomma, ci guarda anche lo stile di vita. Vai alla beauty farm, caro Alpino, Peter Bescapè? Se vai alla beauty farm e questo non è congruo rispetto al reddito che dichiari, in base a quali parametri non si sa, magari tu hai usufruito di un mega sconto, di una promozione, non è questo, vai a saperlo, sta di fatto che potrebbero arrivare controlli mirati. Questo è chiaro che, insomma, fa sapere il Corriere, alcune voci avranno un peso diverso. Le spese per la scuola non potranno essere parificate alle spese per i gioielli. Il valore fiscale delle singole spese potrebbe cambiare anche all'interno della stessa voce o della stessa categoria. È una sperimentazione del sistema che va avanti da quasi un anno. Per Libero è minacciare il redditometro e l'autogol. Ultimo dei professori, il fisco annuncia un nuovo strumento che controllerà l'asilo dei figli, le donazioni alle Ollus, ma senza dire come funziona. Così si fa terrorismo. Insomma, il tema e il dibattito è sempre quello. Io, come detto, ve lo ripeto, avremo alle 8:15 il governatore della Sardegna, Ugo Cappellacci. Lo cito perché in due interviste del ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, che trovate sul Corriere della Sera e sulla Stampa, la Sardegna è identificata come uno dei punti più critici e che più preoccupano il Viminale per possibili tensioni sociali. La Cancellieri, per la verità, nell'intervista a Fiorenza Sarzanini sul Corriere, che trovate un'intera pagina, pagina 17, parla anche del tema delle scorte, tanto care anche a voi ascoltatori, annuncia una revisione degli elenchi che partirà immediatamente, ma la mia decisione è intervenire anche sui regolamenti e sui dispositivi che chiamerei di status. Fa un esempio il ministro dell'Interno. Il mio predecessore Maroni ha disposto la riduzione a un anno della scorta da mantenere agli ex ministri dell'Interno una volta che cessano la carica. Io voglio e vorrei che mi fosse abolita la scorta il giorno dopo il termine del mio mandato. E per le altre cariche istituzionali dobbiamo riflettere su incisive riduzioni. Quindi basta scorte. E il secondo tema che fa discutere del ministro dell'Interno è questo. Basta manifestazioni a Roma. Quello che è successo con i lavoratori dell'Alcoa è intollerabile. Soltanto una perfetta pianificazione del questore ha consentito di scongiurare conseguenze ben più gravi. Dobbiamo stare attenti che Roma non diventi un palcoscenico esclusivo per tutte le manifestazioni, anche se legittime. Io rispetto chi perde il lavoro, chi rischia, posso assicurare che il governo farà tutto quanto in suo potere per aiutare chi è in crisi, ma bisogna rendersi conto che viviamo un momento gravissimo. Non si può pretendere che lo Stato intervenga nel libero mercato e si faccia carico di salvare le aziende in difficoltà economiche. Questo è il messaggio del ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. Finisco con l'ennesima puntata del caso Concordia, la tragedia del naufragio della Costa Crociere. Lo ricordate? Escono nuovi verbali. L'ultima è che ci furono ritardi, sottovalutazioni, che l'equipaggio non capiva, non era preparato. L'equipaggio ha una situazione di emergenza come questa. E Schettino che diceva: La preoccupazione, secondo Schettino, scrive La Stampa, pagina 23, con Grazia Longo, era questa: e mo che dico io alla stampa quando mi chiamano? Il comandante Schettino. Le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qua, vogliamo parlare dell'attualità politica e soprattutto concentrandosi sul mercato e il mondo del lavoro a rischio. Lo facciamo con il governatore della regione che forse in questo momento è più sotto i riflettori per situazioni di crisi, il governatore della Sardegna, Ugo Cappellacci. Buongiorno Presidente, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. L'ha impegnato da qualche giorno a trovare anche una soluzione, a parlare con i possibili compratori dell'Alcoa di Portovesme. Sono tre le offerte per il momento, quelle sul piatto, Presidente? Sono tre le offerte, o almeno tre i soggetti che si sono espressi in termini, diciamo, espliciti, ma ci sono altri due soggetti, sono due multinazionali, una cinese e una indiana, che hanno fatto accesso alla data room e aspettiamo che si esprimano. Quindi c'è anche queste due possibili, ci può dire qualcosa rispetto a queste due possibilità cinesi? Ma queste due ultime è presto, perché ancora ci sono stati solo, diciamo, dei primi contatti, quindi non abbiamo ancora elementi per poter valutare, ma riteniamo comunque positivo che ci siano almeno cinque potenziali soggetti interessati. Questo significa che lo smelter è uno smelter che è ancora interessante, che la produzione d'alluminio, come tutti sosteniamo, oltre a essere una produzione strategica per il paese, lo è ancora nel mondo. D'altra parte l'alluminio è presente in modo massiccio nelle produzioni, nella nostra vita, nel quotidiano, quindi insomma è facile da comprendere. Quindi è più ottimista rispetto a una soluzione positiva, anche per dare un segnale importante in questi momenti di tensione sociale, che è pessimista? Ma guardi, allora c'è un pessimismo, in particolare, come dire, una protesta da parte dei lavoratori, lei saprà, sono nuovamente saliti sul silo, sì, che nasce da alcune considerazioni e da alcuni dubbi. L'Alcoa ha preso la decisione di chiudere l'impianto, anzi sono due gli impianti, uno in Spagna e uno in Italia, appunto perché intende ridurre la produzione di alluminio per poter avere un effetto positivo sui mercati e quindi sui prezzi dell'alluminio. Si immagina e si pensa che non abbia alcun interesse a che quello smelter venga esercitato, utilizzato da altri che continuerebbero a immettere sul mercato la stessa quota di alluminio. Ci sono dei segnali che danno il senso di una certa, come dire, in certi casi difficoltà nelle trattative, quindi la preoccupazione che al di là delle parole, al di là degli impegni scritti, poi non ci sia una volontà concreta di favorire la cessione. Ma questa idea, questa idea della una protesta al giorno, lei la condivide? Condivido la loro disperazione, condivido la necessità che loro hanno di mantenere viva l'attenzione su un problema che è un problema per il territorio vitale, ma io credo per il sistema paese determinante. Si fa tra l'altro un ragionamento che mi piacerebbe riprendere, per cui si dice è un'attività sovvenzionata e questo non va bene. La sovvenzione per le industrie di alluminio e per gli acciaieri di Sicilia, perché stiamo parlando di questo, è di 80-100 milioni l'anno. Se voi considerate che lo Stato spende 9 miliardi di euro l'anno per le rinnovabili e che le tecnologie delle rinnovabili provengono gran parte dall'estero, l'Enea nel 2010 ha rilevato che per il deficit commerciale è stato di 9 miliardi, ci rendiamo conto che sono 9 miliardi che vanno a favorire l'industria estera. Quindi lei dice meglio il lavoro italiano, però su questo tema appunto che lei ha introdotto, Luca Ricolfi è stato molto duro due giorni fa sulla stampa, ha detto: da un calcolo rozzo possiamo dire che in 15 anni ogni anno ogni posto di lavoro sia costato ai contribuenti 200.000 euro. Non è una follia mantenere aperta una situazione del genere? Ma io non credo che questo sia un ragionamento accettabile, prima di tutto perché non è quella la valutazione che va fatta, e se si facesse una valutazione di quel tipo sarebbe un ragionamento da riserva indiana, se andassimo a declinare il tutto facendo il calcolo di quanto costa il posto di lavoro. Dobbiamo capire se la produzione è strategica per il paese, dobbiamo capire qual è l'indotto, dobbiamo capire se l'Italia vuol fare una politica industriale che la vede ancora come leader o potenziale leader dei paesi industriali d'Europa. e questo è l'aspetto definitivo. Dicevo prima sulle rinnovabili 9 miliardi che sono andati all'estero, perché gli altri paesi d'Europa sono stati capaci di sviluppare le tecnologie più di quanto non sia stata l'Italia. Allora è un paese questo che vuole puntare sull'industria oppure no? Il ministro Cancellieri, non so se lei ha già letto un'intervista oggi sul Corriere della Sera, ha definito intollerabile quello che è accaduto con i lavoratori dell'Alcoa a Roma, cioè ha detto non deve diventare Roma un palcoscenico per tutte le pur legittime manifestazioni, queste manifestazioni intollerabili, cioè il timore che tutti portino la crisi con manifestazioni a Roma. Come giudica questa presa di posizione del ministro dell'Interno? Allora, premesso che chi durante le manifestazioni trascende e si lascia andare a atti di violenza e cose di questo tipo è sempre da condannare, però la questione non è e non può essere derubricata a un problema di ordine pubblico. Qua c'è un problema di occupazione, c'è un problema di disperazione ed è quello l'argomento principale. Il governo si occupi di quello e poi non ci sarà problema d'ordine pubblico. Non può pensare di, come dire, di lamentarsi per una manifestazione o perché i lavoratori ritengono di dover manifestare in piazza il proprio disagio. Si parta da quel disagio, si parta dalla causa, non dall'effetto. Però lo stesso ministro dice non possiamo intervenire in una idea di libero mercato pensando di farci carico di salvare le aziende in difficoltà economiche con aiuti statali, cioè basta aiuti di Stato, questo ribadisce il ministro Cancellieri, pur nel rispetto di tutte le persone che stanno rischiando il posto di lavoro. Guardi, allora, questo è un modo assolutamente errato di porre la questione. Intanto il problema delle sovvenzioni è un problema che non riguarda solo quel tipo di industria, ma riguarda tante altre. Anche le editorie e i giornali prendono dei contributi di Stato e nessuno si scandalizza. Ma poi la industria dell'alluminio è un'industria cosiddetta energivora. Allora, in nessun paese d'Europa si potrebbe produrre alluminio se non ci fossero delle tariffe che sono calibrate rispetto a quello che è il consumo, alto consumo energetico di questi impianti. In tutti i paesi d'Europa ci sono delle tariffe che sono sostanzialmente quelle medie che è il risultato finale al quale si arriva utilizzando quelle sovvenzioni, e in molti paesi d'Europa ci sono le sovvenzioni. Ma perché questo accade? Così come accade per le rinnovabili? Perché c'è una strategia paese di politica industriale che ritiene che determinate produzioni debbano essere presenti. Certo. Quindi metterla sul piano delle sovvenzioni secondo lei è scorretto, diciamo, come impostazione di base. Ma le chiedo questo, il ministro Cancellieri ha detto che la Sardegna, tra l'altro, è una delle zone che più preoccupa in questo momento come crisi, come rischi di tensione sociale. Lei conferma? C'è anche la questione dei pastori, c'è la questione di altre ovviamente situazioni? No, assolutamente, noi abbiamo un sistema industriale che dal nord, passando per il centro, arrivando al sud, nel Sulcis, sta soffrendo e sta cadendo a pezzi, veramente un pezzo dietro l'altro. Abbiamo le multinazionali che fanno un ragionamento molto semplice di delocalizzazione dei fattori della produzione, vanno a vedere quali sono i paesi, e l'Alcoa investendo in Arabia Saudita, dove i fattori della produzione costano meno e investono lì. Allora, il problema è cercare di capire quali sono i nodi che rendono il nostro sistema debole, e quello dell'energia è certamente uno di questi, e intervenire se si vuole, rispetto a fare una politica industriale degna di un paese civile, moderno, degna di un grande paese quale è stato l'Italia e può continuare. Ma secondo lei il governo sta facendo abbastanza su questo? Ma guardi, se il governo sta facendo abbastanza o meno, forse lo potremmo dire alla fine al risultato finale. Certamente sul fronte dell'energia si è attivato e sta facendo molto. Si è detto però in questi giorni ci sono alcuni passaggi che appaiono impossibili. Credo che la situazione sia straordinaria e quindi che si debba anche immaginare, lo dico come provocazione evidentemente, di passare anche dal possibile all'impossibile. E quindi facendo che cosa? E quindi facendo il massimo sforzo, cercando di capire quali sono gli strumenti che si possono mettere a disposizione. Lì c'è un problema di energia e bisogna capire quello che fanno gli altri paesi europei e come gli altri paesi europei riescono ad arrivare a quei prezzi competitivi, pur avendo, a parte alcuni paesi, per esempio la Francia che ha il nucleare, ma non tutti i paesi hanno condizioni di questo genere, hanno sistemi di produzione analoghi ai nostri. Allora bisogna capire come i governi intervengono per favorire questo. Bisogna capire come si può arrivare a degli accordi bilaterali con i produttori di energia, perché anche quei produttori di energia lucrano da quelle attività dovrebbero forse in certi casi legare le sorti del business alle sorti dell'attività che stanno alimentando sul piano. Cioè, o ricontrattare con il fornitore di energia, oppure avere sconti, quali sono, oppure se va male l'azienda anche... Il prezzo dell'energia, il prezzo delle materie prime, capita anche in altre parti d'Europa, non si deve scandalizzare. Sostanzialmente il venditore di energia, il produttore di energia si lega in parte al business. Un'ultima cosa, governatore Cappellacci, ma questi cinesi e indiani hanno un volto, hanno un nome? Cioè... I cinesi ancora non hanno un volto, si parla, potrebbe anche essere un'azienda di Stato, però credo che sia presto per fare indiscrezione perché ancora non hanno un volto. Gli indiani il volto ce l'hanno, ma hanno chiesto ancora di mantenere la cosa riservata ed è una grossa multinazionale. Va bene, la ringrazio, buona giornata. Ovviamente grazie, staremo a vedere come evolve questa vicenda che lei come governatore della Sardegna, il governo ovviamente sta monitorando giorno per giorno. Era Ugo Cappellacci, il presidente della Regione Sardegna, sulla vicenda Alcoa e non solo, sulle tensioni sociali. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Tra poco parliamo di quello che sta succedendo in Libia, dove forse per un film ritenuto blasfemo dagli islamici, o forse per altri motivi, vale a dire il terrorismo che non si è mai sopito, e quindi il pretesto potrebbe essere quello di un film, ma il motivo era quello di colpire in maniera terroristica. E sta di fatto che sono stati uccisi l'ambasciatore americano a Bengasi, era, e quindi siamo in Libia, e tre funzionari sempre americani, e Obama dice ci vendicheremo, nel senso reagiremo. Ci sono già delle navi militari che si stanno approcciando verso la Libia. Insomma, ci siamo risvegliati il 12 settembre per riscoprire che Al-Qaeda, il terrorismo islamico, non si è mai messo in sonno. Ci siamo risvegliati il 12 settembre del 2012 per accorgerci che Al-Qaeda, comunque il terrorismo islamico, non è mica andato in sonno, Allora, cosa è successo in Libia? Beh, io partirei dalla coda, che sicuramente inquieta. Il presidente americano Obama ha detto reagiremo, e ci sono già navi da guerra americane che si stanno approcciando alle coste della Libia. Questa è la notizia delle ultime ore. Ieri un attacco per l'America pianificato, con un pretesto, in realtà, quello che viene considerato una scusa, vale a dire un film ritenuto blasfemo nei confronti del profeta Maometto e dunque dell'Islam, che già aveva dato modo in Egitto a causare delle manifestazioni contro l'ambasciata americana, e che secondo però gli americani è stato usato come pretesto per un attacco premeditato e studiato a tavolino contro il consolato americano a Bengasi. Ne ha fatto le spese, è stato ucciso l'ambasciatore americano in Libia, sono stati uccisi tre funzionari, e si torna a parlare di possibile guerra, comunque di anche tema di scontro di civiltà. Ne vogliamo discutere con Carlo Panella, che saluto, buongiorno, giornalista, buongiorno. Scrittore, saluto anche Massimo Fini, buongiorno anche a lei Fini, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Due giornalisti che sono già stati i nostri ospiti, si occupano anche di questi temi, hanno uno sguardo molto attento su quello che succede in Medio Oriente. Allora, io vorrei fare questa premessa. Panella, se fosse davvero la motivazione che ha scatenato tutto un film ritenuto blasfemo, in cui si riproduce il profeta Maometto, si ritrae con un attore, già questo è considerato blasfemo per l'Islam, e poi insomma lo si dipinge come un donnaiolo, eccetera, se fosse questo il pretesto, che dobbiamo dire? Dobbiamo stare attenti ai film che facciamo, è giusto avere rispetto per le religioni di tutti, e quindi non azzardarsi in azioni come quelle delle vignette danesi di qualche anno fa, che poi suscitarono problemi, oppure è la libertà di fare quello che si vuole che deve valere per noi? Ma a prescindere dal fatto che appunto non è assolutamente questo, ne parleremo dopo, perché è evidente che il quadro di quello che è successo a Bengasi è ben diverso, vi anticipo subito, cioè è la prima volta nella storia che si vede un gruppo di miliziani di Al-Qaeda che con armi medie, mitragliatrici e razzi fa un'azione vincente appoggiandosi ad una manifestazione popolare, ma di questo ne parleremo dopo. Torniamo al problema numero uno. Questo filmato è un'ignominia, è anche orrendo, insomma, il mondo è pieno di cretini. Il nodo vero è quello che in tutto il mondo islamico non esiste, anche nei settori moderati, il principio della libertà di espressione e di pensiero. In tutto il mondo musulmano, anche nel mondo moderato, da qui si deve iniziare, se un musulmano passa a un'altra religione o all'ateismo viene considerato un apostata. Questa ha una ragione molto profonda per l'Islam, vi ripeto, anche quello moderato, l'uomo nasce musulmano e soltanto la famiglia lo fa diventare membro delle religioni ammesse, che sono il cristianesimo e l'ebraismo. Cioè c'è un nodo di come dire, autoritarismo dentro l'Islam, anche quello moderato, che poi dopo nelle frange estremiste fa conseguire queste cose. Punti. Quindi noi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè noi dobbiamo fare la libertà, mantenere la libertà di espressione, ma dovremmo incominciare in maniera molto calma, tranquilla, oltre che a difenderci dai pazzi estremisti, islamisti e terroristi, di affrontare questo nodo in tutte le sedi, con, dal punto di vista culturale, con il mondo musulmano. Anche perché poi affrontiamo poi il tema appunto Al-Qaeda, ma per rimanere intanto sulla questione del film, scrive oggi Adriano Sofri su Repubblica, e vorrei girare questa considerazione a Massimo Fini. Nei giorni appena, certo, ci dobbiamo porre il problema di quando si fanno rappresentazioni che possono essere ritenute offensive delle religioni altrui, ma scrive Sofri: nei giorni appena scorsi, quando si giocava il destino di una bambina pakistana, Rimsha, undicenne, cristiana con la sindrome di Down, accusata calunniosamente di aver bruciato alcune pagine del Corano, incarcerata, nessuno ha fatto assalti alle ambasciate e nemmeno, salvo che mi siano sfuggiti, misurate manifestazioni di sdegno di fronte a una simile infamia. Ecco, Fini, dobbiamo relativizzare tutto, rispettare tutto, va bene, ma non è che non dobbiamo neanche cedere sui temi della libertà noi cari in Occidente? Ma per la verità il filosofo politico americano Michel Walzer ha detto: questa situazione l'abbiamo prodotta noi, e non per i film blasfemi o cretini, l'abbiamo prodotta noi con questa smania di ingerirci continuamente nel mondo islamico. In Libia c'era Gheddafi, con cui abbiamo trafficato a lungo, tutti noi democrazie occidentali. Poi un giorno abbiamo deciso che Gheddafi non andava più bene, era impresentabile, e non una rivolta dei libici, ma in realtà gli aerei della NATO hanno abbattuto quel regime. Ma Gheddafi, proprio in quanto dittatore, era in grado di mantenere l'ordine in un paese che è fatto di un'infinità di gruppi tribali, di etnie, di confessioni religiose che sono sì musulmane, ma sono molto diverse. Beh, anche Saddam in Iraq, si diceva. Allora conviene tenere il dittatore che sotto il suo giogo riesce a... Conviene, bisogna che l'Occidente la smetta di inserirsi in questi mondi. Questo dobbiamo fare, perché se no con le nostre l'inferno è lastricato di buone intenzioni, a parte il fatto che poi ci sono sempre interessi, ma lasciamo perdere. Ma non sono separati questi mondi da noi, sono tutti compenetrati, sono vicini di casa, cioè come facciamo a non interessarci per nulla di quello allora che succede? Ma allora perché questi non dovrebbero interessarsi delle mascalzonate che avvengono in Occidente? Noi dobbiamo rispettare i mondi altri, i quali evoluiscono o non evoluiscono secondo le loro vocazioni. Se invece pretendiamo di avere in mano i valori assoluti, che guarda caso sono i nostri, e di esportarli con la violenza negli altri paesi, prima l'Afghanistan, prima ancora la Serbia, che non è un paese islamico, prima l'Afghanistan, poi l'Iraq, Poi la Libia, lei capisce che anche un musulmano moderato si arrabbia e si incazza. Allora, no, su questo Panella vuole replicare, così facciamo il concetto. Sì. Io stimo moltissimo Massimo, che saluto, scrivo dei libri sempre molto stimolanti, ma il problema è molto semplice: noi li lasciamo assolutamente in pace. C'è stato l'11 settembre, c'è stata Atocha a Madrid, c'è stata Londra, cioè c'è stata una parte del mondo musulmano che ha lanciato un attacco militare terroristico. Sai che però Panella, per molti questo, per molti l'11 settembre avviene come Massimo. Reazione, per molti, come sa Panella, l'11 settembre avviene come reazione a politiche decennali dell'Occidente aggressive. Ma no, ma assolutamente no, perché l'11 settembre, per molti che non sanno niente, l'11 settembre corrisponde ad una logica assolutamente interna al mondo musulmano, ed è un'azione fatta, e basta leggere quello che dice chi l'ha fatto, cioè Al-Qaeda, è un'azione fatta per arrivare a conquistare il califfato in Arabia Saudita e colpire gli alleati dell'Arabia Saudita. Quello è il principio dell'11 settembre. L'11 settembre è un attacco all'Occidente per indebolire il principale alleato di quelli che loro considerano i loro nemici all'interno del mondo musulmano. C'è una guerra civile all'interno del mondo musulmano che genera Al-Qaeda. Questo è il punto. Massimo ha ragione quando dice assolutamente noi non sappiamo rapportarci all'evoluzione libera del mondo musulmano. In questo ha assolutamente ragione. Non abbiamo i criteri, non ce l'ha l'amministrazione americana, nessuna amministrazione americana, né Bush né Obama, non ce l'ha l'Europa. Noi continuiamo a non capire che cos'è l'Islam nella sua evoluzione e continuiamo a essere sconvolti dei fenomeni che l'Islam si propone. Però quando ha sconvolto l'Occidente, Panella, no? quando il giornale titola come oggi, e c'è un editoriale di Magdi Cristiano Allam, torna l'Islam assassino. Questo vorrei una considerazione da entrambi. Massimo Fini, lei come la giudica questo approccio? Ognuno titola come vuole, da noi appunto c'è libertà di manifestare il proprio pensiero. Non si può dimenticare però che a nostra volta noi siamo stati assassini nel mondo islamico. Le vittime in Afghanistan sono circa 70.000, le vittime civili dico. In Iraq sono state calcolate nell'ordine dei 600.000. Non sono quando uno si vede bombardato anche con le migliori intenzioni, questo reagisce contro. Per Panella, però Panella dice è una reazione, nessuno vuole giustificare le vittime civili, per carità, la guerra è una cosa sporca e brutta, però è stata una reazione dopo l'11 settembre, dopodiché è chiaro che quando si fa una guerra purtroppo... Sì, bisogna anche considerare un po' la storia dell'Occidente nel mondo arabo-musulmano. Prendiamo l'Iraq. L'Iraq è una invenzione cervellotica degli inglesi nel 1930. Sì, sì. In Medio Oriente gli inglesi sono più odiati degli americani, che è tutto dire. Degli inglesi nel 1930 hanno messo insieme tre comunità che non hanno niente a che fare con fra di loro, cioè curdi, sunniti, sciiti. Questo ha provocato il fatto che in quella situazione solo un dittatore sanguinario, come lo chiamava giustamente l'impresario del crimine, poteva tenere in mano la situazione. Abolito, cacciato, ucciso Saddam con un prezzo, ripeto, di vittime pazzesco, noi abbiamo, sono tutte operazioni boomerang, noi abbiamo consegnato l'Iraq all'Iran. Così come dice abbiamo fatto la Libia adesso dopo Gheddafi, è stata una cosa che ci si ritorce contro? Sì, contro, in continuazione noi facciamo boomerang, è dall'85 che l'America prende di punta l'Iran, perché è una teocrazia eccetera, che era comunque sempre meglio dello Shah, che era un dittatore pazzesco, e siamo riusciti nel corso di questi anni a ottenere il contrario. Questo è un problema, è un tema molto interessante da cui voglio ripartire dopo le informazioni sul traffico, che si intreccia sul tema della cosiddetta primavera araba. Cioè abbiamo salutato anche l'Occidente con grande, molti con soddisfazione, altri con certa preoccupazione, quello che è successo negli ultimi anni in Egitto, nell'ultimo anno e mezzo, diciamo, in Egitto il cambio di regime in Libia, cioè salutando quella definita come primavera araba come una possibile apertura lenta, un processo democratico di alcune parti del mondo. Vorrei sentire, ci hanno chiamato all'800240024 qualche ascoltatore. Giuseppe da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo dire una cosa, visto che ho praticato per molti anni come consulente della grossa famiglia la Libia, e che parte di quello che è successo poi credo anche di aver contribuito sotto la sabbia a muoverlo, che alla fine ma poi che, cioè, cosa ci sta dicendo Giuseppe, nel senso, perché in che senso ha contribuito? Nel senso che già da Benghazi, parlo di 7, 8, 10 anni fa, aveva cominciato un sommovimento contro la capitale, contro i Gheddafi, sì, contro la dittatura. Io penso, avendo praticato molto quei territori, che purtroppo la zona di Benghazi, per fortuna, sia stata influenzata dai contadini veneti al tempo che sono trasmigrati là. E mentre la Libia, la Tripolitania, è stata influenzata dai gerarchi romani, dai fascisti. E c'è una incompatibilità proprio, il grosso dell'industria è a Benghazi. Sì, questo sì, però Giuseppe, questo è per quel che riguarda l'unità interna, spesso se ne è discusso, cioè di due paesi che in realtà sono ben distinti e magari difficilmente possono rimanere uniti. Però qui la questione è diversa, cioè lei come legge i fatti attuali, che hanno assaltato un consolato, hanno ucciso un ambasciatore americano, cioè non è una cosa da poco. C'è una cosa gravissima poi che è successa, è che si è mosso il solito estremismo islamico, ma ormai di chi è a servizio quell'estremismo? Di un processo di frammentazione delle nazioni arabe? E questo bisogna chiederselo. Gli americani lavorano bene da molto tempo giù, ma non solo in Libia, in tutto il Medio Oriente, se no non si sarebbe aperto questo nuovo processo di democratizzazione o di tentativo di democratizzazione dei regimi arabi. L'America fa anche lei poi un bel momento il gioco che può, cioè ad un bel momento scatenata la bufera dentro in Libia, ha battuto il regime, tirata via la famiglia Gheddafi, da Sebba, perché sono stati da Sebba che hanno, dove hanno loro il loro adesso succede questo. Ma lei, mi scusi, lei parla un italiano perfetto, ma è italiano, no? Perché ha una piccola... Sì, io sono italiano, anzi no, sono veneto di origine, ma ho vissuto in Svizzera per tanti anni e sono stato influenzato nella cadenza. Ecco per quello. Intanto la ringrazio, vorrei andare a Verona, da Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, salve. Sì, io avete già ricalcato un po' quello che volevo dire nelle vostre discussioni. Io la penso un po' come il dottor Fini, insomma, gli occidentali credo che abbiano messo fin troppo il naso in certe politiche di altri stati. È facile ricordare l'11 settembre del 2001, ma l'11 settembre del 73 Nixon diede 10 milioni di dollari a Pinochet per fare un colpo di stato in Cile, ma quindi lei come Massimo Fini, non è che la voglio interrompere ma l'audio non è perfetto, lei come Massimo Fini dice l'Occidente guardi un po' in casa propria prima di fare la predicare la morale e di vedere quelle che sono le reazioni. Qui Carlo Panella è una teoria che è molto più diffusa, devo dire. Carlo Panella, lei è tra quelli che è sempre guardato con scetticismo anche questa primavera araba, però posso prima devo dire una cosa, se no non ci capiamo. Dal 1804 è in atto nel mondo islamico una guerra civile dei wahhabiti salafiti, dei fondamentalisti islamici contro gli sciiti e contro i sunniti moderati. Se non capiamo questo, che la violenza di cui è l'ultimo esponente Al-Qaeda, Osama Bin Laden, al-Zawahiri, ha delle ragioni endogene, e però si riversa contro di noi, e però si riversa contro di noi. Adesso il nemico da un po' di anni siamo noi. Una storia interna all'Islam, non è la reazione all'imperialismo, agli americani, agli inglesi, eccetera. Tra il 1804 e il 1830 c'è una crociata dei sunniti moderati egiziani contro questi wahhabiti che stanno in Arabia Saudita, e qui va avanti da 150 anni. Allora, questa violenza di cui Osama Bin Laden, Al-Qaeda e l'ultimo esponente, è tutta interna al mondo musulmano per ragioni teologiche. E noi ci siamo finiti in mezzo perché non c'entrano le nostre politiche, il fatto assolutamente di... Assolutamente no. Guardate che delle vittime dell'Islam irachene, tre quarti sono musulmani sciiti uccisi da musulmani sunniti. Gli attentati sono dentro le moschee, tre quarti degli attentati in Iraq non sono contro gli americani, l'esercito nazionale, l'esercito iracheno, ma sono contro le moschee di quegli altri dell'altra setta. Se non si capisce questo, che dentro il mondo musulmano c'è una guerra di religione tra sì. due componenti, non si capisce. No, ma questo è, cioè, innegabile, anche scritto nella storia, che sunniti e sciiti siano divisi, questo non sì. sono divisi. Beh, si sparano, vabbè, si uccide. Per ragioni loro, in cui non c'entra niente l'imperialismo, e tre quarti delle vittime del terrorismo islamico sono figlie di una guerra di d'accordo, ma a maggior ragione Fini dice: ma allora perché ci andiamo a mettere il naso da decenni in quei mondi? Molto semplice, che se non ci mettiamo il naso, per un sì. caso della storia, la giugulare, la energia, la nostra vita dipende dall'energia, dal petrolio, dal metano, dal gas, eccetera, ecco. sta sotto i normali e logici interessi economici. Non sono interessi economici. Beh, insomma, come no? Beh, interessi economici non è una cosa offensiva, interessi economici, appunto, interessi economici, se no non sopravviviamo. La vita. Massimo Fini, questa è la lettura di Carlo Pannella, insomma, è per questo che noi Pannella si è smascherato in questo modo. Ma diciamo, la lotta che c'è adesso in Iraq fra sunniti e sciiti non c'era quando governava Saddam Hussein. Beh, forse veniva tenuta soggiogata, però c'è sempre stato l'odio tra sunniti e sciiti, questo è innegabile. Voglio dire, pensare che tutto dipenda da un regolamento di conti interno fra le varie componenti musulmane e che noi, anime belle, non c'entriamo nulla, mentre invece continuamente dobbiamo approvvigionarci di petrolio perché i paesi ce l'hanno e noi non ce l'abbiamo, e poi mascherando le nostre azioni di forza con... non le chiamiamo guerre, le chiamiamo operazioni umanitarie. Beh, ripeto, anche un musulmano moderato, normale, eccetera, alla fine si incavola. Io mi ricordo che anni fa tre annunciatrici della televisione egiziana che mai si erano sognate di mettersi il velo sulla testa, televisive, sì. se lo misero, diciamo, in polemica con questa continua ingerenza anche ideologica che l'Occidente fa. Poi c'è da distinguere fra le primavere arabe, per esempio quella tunisina è stata totalmente autoctona, in due giorni hanno cacciato questo dittatore Ben Ali, che è fuggito con la cassa. Quella egiziana era pure una autoctona, ma al posto di Mubarak è arrivato l'esercito che era... Beh, adesso ci sono state poi le elezioni. Sì, ma ci sono state poi le elezioni, però voglio dire, una rivoluzione è stata almeno per un bel po' di tempo trasformata in un golpe militare, certo. Si sa che l'esercito... Mentre invece questa della Libia dice abbiamo bombardato e adesso ci si sta ritorcendo conto. E per forza, non mi pare elementare, poi ripeto... Tu dici, uno può dire ma Fini è pazzo, un estremista, lo dice questo politologo americano, Walzer, non credo che sia un estremista talebano. Fermiamoci qui, io mi devo fermare, ovviamente vedremo come evolve questa situazione in Libia, seguite anche il giornale radio e tutta la programmazione di Radio 24, ripeto, navi da guerra americane sono vicine, si stanno avvicinando alla Libia e Obama dice reagiremo. Ringrazio Carlo Pannella, giornalista e scrittore, insieme a Massimo Fini, anche lui giornalista e scrittore. Ci fermiamo ringraziando tutti, ascoltateci anche su radio24.it in podcast e trovateci su Twitter @AlinoMilan, sono io @24mattino la trasmissione. A domani alle 6:30.